e sul giradischi non lo facciamo più, mai più. E mentre Battisti cantava ancora tu, non dovevamo vederci più. E anche se non sono solo, nudo nella mia stanza, ti ascolto e fisso il vuoto, e per te non è abbastanza. Io non voglio perdere quel poco che ho di te, quel poco che hai di me. Richiamami se vorrai, il silenzio abissale. Richiamami se vorrai, per godere un paio d'ore. Richiamami se vorrai, ricantare una canzone. Ma stavolta già lo sai, useremo Spotify. Trascino le notti guardando la TV, e tu quel giradischi non mi racconta più, non dovevamo manco ora tu. E adesso sono solo, nudo nella mia stanza, ti aspetto e fisso il vuoto, e per me non è abbastanza. Io non voglio perdere quel poco che ho di te, quel poco che hai di me. Richiamami se vorrai, il silenzio abissale. Richiamami se vorrai, per godere un paio d'ore. Richiamami se vorrai, ricantare una canzone. Ma stavolta già lo sai, useremo Spotify. Già lo sai, useremo Spotify.